Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Chi segue questa trasmissione sa che ogni tanto io dico che alcuni romanzi vanno letti più di pancia che non di testa. Ed è il caso del romanzo che presentiamo oggi. Si intitola Il corpo docile, l'ha scritto Rosella Postorino, con una sola S, Rosella, ed è pubblicato da Einaudi nella collezione Stile Libero Big. È un romanzo appunto che, dicevamo, io ho letto proprio di pancia, perché è scritto secondo me con un tipo di scrittura che provoca emozioni, una scrittura emotiva, se così possiamo definirla. Rapidamente la trama: la protagonista è una ragazzina, una bambina all'inizio del libro, Milena, che nasce in carcere perché sua madre è detenuta. Quindi seguiamo la vita di Milena da bambina e poi seguiamo quando invece ha 20-25 anni nella sua vita appunto di ragazza. Rosella, allora, ci puoi descrivere un po' come hai voluto, come ti sei immaginata questa bambina, questa Milena? Sì, io 4-5 anni fa ho scoperto, perché non lo sapevo prima, che esistono dei bambini che nascono in carcere, che vivono in carcere con le madri detenute fino a 3 anni. Scoprire questa cosa mi ha colpito moltissimo, perché è difficile, cioè è veramente terribile immaginare degli esseri umani che vengono al mondo dentro la galera, cioè dentro uno spazio chiuso, separato dall'esterno, da cui non si può uscire. Circoscritto, dove non puoi decidere nulla, e neanche tua madre, che di solito è quella che protegge e che ti insegna, no, le cose della vita, può insegnarti nient'altro che quello che vedi, cioè dove l'orizzonte è sempre un muro. E questa idea dei bambini detenuti mi ha lavorato in testa per molto tempo, finché a un certo punto ho deciso che poteva diventare una storia. E per farlo, per poter scrivere questa storia anche con un bagaglio di verità dentro, ho deciso di fare del volontariato con i bambini detenuti, perché esiste a Roma un'associazione di volontariato che si chiama A Roma Insieme, fondata da Leda Colombini, che si occupa delle madri detenute e dei loro bambini dentro il carcere di Rebibbia. Fondamentalmente fa una cosa che fa soltanto il carcere di Rebibbia in Italia, cioè esistono i sabati di libertà. I bambini possono ogni sabato lasciare il carcere e varcare la soglia delle sbarre, fondamentalmente conoscere il mondo con i suoi colori, con la varietà di stimoli anche sensoriali che dentro il carcere sono possibili. Che non possono ovviamente avere. Prima dicevo che questo libro l'ho letto appunto più di pancia che di testa, anche perché tratta dei temi a me molto cari, insomma, che io faccio la volontaria appunto in carcere, anche se nel reparto maschile di San Vittore, e poi ovviamente i bambini, non so, forse in noi donne suscitano sempre, come dire, una certa tenerezza. Veniamo quindi al personaggio di Milena. Il romanzo inizia con la bambina che, nel momento in cui compie 3 anni, deve abbandonare il carcere, perché per legge i bambini possono stare con le madri solo fino ai 3 anni, e viene presa da questo padre che è assolutamente insensibile. Ecco, queste scene mi hanno fatto molto male, insomma, ho immaginato questa bambina, viene quasi voglia di abbracciarla, questa Milena. Come mai questo padre è così freddo? Questo padre è così, in realtà non è completamente freddo con questa bambina, è semplicemente un uomo contraddittorio, perché contraddittorio è il rapporto che lui ha avuto con sua moglie. La moglie, la madre di Milena, si trova in carcere, io dico nel romanzo, perché ha preteso onestà. Milena dice che sua madre è una barzelletta, cioè sua madre si è trovata in carcere semplicemente perché a un certo punto, mentre era incinta di lei, ha colpito il marito, insomma, che la tradiva, che era un modo per me di raccontare come il carcere che siamo abituati a considerare, diciamo, come il luogo che separa i delinquenti da noi, no? Di cui non dobbiamo neanche sentirci responsabili, perché loro sono gli ingiusti e noi siamo i giusti. In realtà il carcere è una cosa che può capitare a tutti, se in un momento della tua vita puoi seguire, diciamo, la strada sbagliata. Di fronte ad un bivio scegli quello esattamente sbagliato. E quindi lui, la madre, tra l'altro, ha impedito al marito di vedere questa figlia quando era in galera, quasi come una forma di ricatto verso di lui, che non la voleva, anche se poi se l'è ripresa paradossalmente in casa. E quindi lui è un uomo di questi incapaci, fondamentalmente, di avere delle relazioni umane con questa, umane davvero è la parola, con questa bambina. Il punto è proprio questo, cioè la difficoltà di Milena, che è un essere umano nato in carcere, cioè nel posto più deumanizzante che esista, è proprio come